24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Stiamo facendo esattamente il contrario di quello che avevamo detto tutti quanti, a cominciare dal segretario del PD, a cominciare dalla minoranza ostile al segretario, talmente ostile che lo manda a Palazzo Chigi. Si dice che se non si vota questa proposta così com'è, si vota contro 3 milioni di italiani? Ok, va bene. Funziona così un partito? Io temo di no. Io credo di no, io spero di no. Si chiama Partito Democratico. La gente si aspetta che noi discutiamo, che non siamo una caserma. Vi proponiamo di utilizzare come scadenza della legislatura la scadenza naturale, sapendo che è facoltà della Camera dei Deputati e del Senato in ogni momento negare la fiducia, e sapendo anche con grande determinazione e convinzioni che da questa parte del tavolo non abbiamo paura di confrontarci con gli italiani. Ecco, onorevole Civati, buongiorno. Mi sente, ecco. A quanto lo dà il voto in primavera? 70-80%. 70-80%. Quindi lei pensa che si vota? Cioè, il fatto che Renzi ha anticipato la discussione sull'Italico in Parlamento è il segno di questa intenzione? Beh, intanto è una buona notizia, perché noi siamo senza o quasi legge elettorale. D'accordo. L'Italico va molto migliorato e secondo me si deve tornare a una normale dialettica democratica per cui ci sia una destra più o meno moderata e una sinistra. Sì, no, più no, o meno ma io centro. Le ho fatto un'altra domanda, le ho detto, il fatto di aver invertito con l'ordine dei lavori con la pubblica amministrazione vuol dire qualcosa politicamente oppure no? Diciamo che è un indizio, come lo è l'excusatio non pedita di ieri. Renzi ha fatto questo passaggio che poi è stato molto commentato, dicendo: non sono io a volervi portare al voto, ma se volete ci sono e vi sfido volentieri. E quindi siamo al 70%. Direi di sì, di direi possibilità di sì. Ma nel complesso il discorso di Renzi di ieri dei 1000 giorni, siamo all'annuncite o c'è qualcosa di più? Beh, insomma, è inevitabile che un discorso di quel genere sia un po' un annuncio anche programmatico, certo. Sì, sì, insomma, questo non credo che sia il motivo di senso, di consenso verso Renzi. Ci sono alcuni passaggi politici discutibili, come sempre, qualcuno nel PD li ha già discussi. Ecco, lei quale discute di passaggio politico? A me non è piaciuto molto il passaggio sulla sinistra. Lui, convinto di essere molto di sinistra, secondo me non lo è così tanto. Ma gli 80 euro sono di sinistra o no? Sì. Gli 80 euro, se fossero strutturali e se fossero all'interno della riforma fiscale, lo sarebbero di sicuro. Saranno strutturali, no? Così dice il Premier. Sì, certo, ma bisogna vedere a fronte di che cosa, però, come sa, perché poi le cose vanno coperte, come certo, diciamo nel nostro strano linguaggio. Anche sulla giustizia è stato un po' veloce, un garantismo un po' di maniera, diciamo, perché... Perché il garantismo vero come dovrebbe essere? Ma il garantismo vero, secondo me, è che la politica, quando le indagini riguardano appunto la politica, deve sapere prendere le misure e dare un giudizio che caso per caso, insomma, non tutte le indagini sono uguali, però io un po' di cautela in più ce la metterei, visto i disastri che conosciamo, visto la corruzione che attraversa il sistema politico a tutti i livelli, insomma. Però, il fenomeno, però, diciamo, c'è stato anche un eccesso di delega alla magistratura, no? Io o sto no? Dicendo la stessa, chiedo, cosa. Secondo me la politica deve saper valutare le situazioni, ovviamente alla luce di quello che dicono i magistrati, ma con un giudizio proprio, non necessariamente però più gentile di quello dei magistrati. Ma l'avviso di garanzia che cos'è, secondo lei? Beh, l'avviso di garanzia dal punto di vista tecnico è a tutela del... No, questo lo sappiamo. No, lo ricordo perché il passaggio l'ha fatto anche Renzi, quindi non è così banale se lo dice il Premier. Certo. Dopodiché è chiaro che se uno viene indagato per un reato grave, le prove a suo carico possono consentirci di esprimere una valutazione politica, quella valutazione politica ci deve stare anche a tutela della serenità del dibattito. E fanno troppe ferie i giudici oppure no? Ma guardi, mi sembra un po' un argomento vacuo, se ne possono fare di meno, ma mi pare che il compromesso che hanno trovato alla fine consenta loro di fare più vacanze di prima, perché se nei 45 giorni non devono essere tenuti a fare proprio nulla, no? Nei 30 alla fine mi pare che il risultato sia più o meno lo stesso. Senta, ma... Io parlerei di cose più serie, se si può, sulla giustizia. Vabbè, quello è stato un tema di cui si è discusso. Senta, lei, Renzi ha annunciato la nuova direzione, giovedì ci sarà, la sua con lei è fuori? Per scelta? Com'è? Ma io o sono dentro? Un po'... Ma cioè, guardi, io sono una persona... È unitaria o plurale questa direzione? No, diciamo che più unitaria che plurale, sembra un dibattito del Concilio di Nicea. No, io guardi, sono molto lineare e molto noioso, preferisco tenere la mia impostazione che è molto, almeno per quanto mi riguarda, è molto seria, non è utilitaristica. Quella segreteria è giustamente renziana, ha scelto alcuni esponenti della minoranza più, come dire, morbida verso di lui, che ha già iniziato a condividere le sorti del governo. Per me è meglio tenere distinti ruoli. Senta, ma perché non esce? Lei ha detto che si sente sempre più vicino a Sel, perché non esce? No, mi hanno fatto una domanda più maliziosa della sua, mi hanno chiesto se dovesse uscire preferirebbe Sel o il 5 Stelle, vabbè. Io inevitabilmente ho risposto Sel, con la quale, come noto, collaboro e spero che rientri una proposta di centrosinistra. E quindi lei sta, come dire, a fare la sinistra di sua maestà, insomma, resta lì. Ma guardi, fare la sinistra oppure fare il vecchio repubblicano, se posso fare un paragone, perché sono molto preoccupato delle riforme costituzionali, della legge elettorale e dei diritti di chi lavora e chi produce, che sia lavoratore o imprenditore. Quindi non è necessariamente una posizione radicale la mia, è una posizione che riporta ad alcuni valori però a cui non voglio rinunciare. Senta, Mario Secchi gli vuole fare una domanda. Buongiorno Civati. Buongiorno. Molto secca, perché Renzi dovrebbe andare alle urne? Perché secondo me sfrutta una situazione che a lui può essere congeniale, è fortissimo dal punto di vista elettorale, è molto alto nel consenso della popolazione, forse meno tra l'elite da qualche settimana, e potrebbe scegliere di assumere fino in fondo un mandato che in questo momento ha ricevuto indirettamente dalle europee, ma che sappiamo gli deriva da un'operazione di palazzo. Sì. A lui questa cosa sotto pesa, secondo me. Pietrangelo Buttafuoco, una domanda a... Buongiorno, però faccio la domanda al filosofo. Secondo lei, quale sinistra vince di più, quella di Renzi o la sua? Guardi, probabile che vinca quella di Renzi, su questo possiamo essere d'accordo, anche perché lui mi ha battuto sonoramente alle primarie tra elettori di centrosinistra. Il punto è capire quale tasso di sinistra, quali valori rappresentiamo. Questo è il nostro dibattito, se lui fosse più aperto sarebbe meglio per tutta la sinistra. Ecco, l'onorevole Civati, un'ultima cosa. Roberto ci scrive: Renzi ha fatto di più in poco tempo di tutti i suoi predecessori in 20 anni, è d'accordo? Ma mi sembra un parere molto simpatico verso Renzi, ma non, vediamo questo autunno, che non è così semplice, non solo per responsabilità di Renzi, la sua responsabilità è di aver scelto di andare al governo con questa maggioranza in questa situazione, magari attendendosi una ripresa che ancora non arriva. Senti, l'ho visto poco fa nel suo tour ad Agorà, ci dice una cosa che non ha detto ad Agorà? Ma molte in realtà, perché c'era già un clima da... Ne dica una forte che facciamo il titolo. Che mi è antipatico Ferrara, non ce la faccio. Ah, no. Qui casca male. No, l'ho detta ridendo. Va bene. No, perché ha dato le pagelle a tutti, ha trattato male la ragazza, come l'ha chiamata lui, che in realtà è una dirigente sindacale, un va po' bene. Sessista, insomma. Vabbè, l'unica cosa che non gli ha detto è che Ferrara non gli è simpatico. Vabbè, d'accordo, allora aveva detto tutto. Grazie. Arrivederci. E sono molti i fronti aperti alle porte dell'Europa. In Ucraina la situazione è sempre più incandescente. Il presidente siriano Assad dice sì a eventuali raid aerei occidentali sul proprio territorio. Le forze armate sono pronte a un'offensiva via terra sulla striscia di Gaza. Colpi d'artiglieria pesante riecheggiano nel quartiere Kokodi, roccaforte dei fedelissimi di Gbagbo a Galabijan. In Nord Africa c'è la Libia in piena guerra civile, l'Iran intanto soffia sul fuoco di Gaza e annuncia la ripresa di aiuti militari a Hamas. Sono tutte vittime di un'esposizione massiccia ad un agente tossico, che in altre parole significa armi chimiche. Non escludo un intervento militare in Siria. Il nostro obiettivo è chiaro: indebolire per poi distruggere l'ISIS. Mio figlio stava attraversando il quartiere a Abu Issam, ha comprato dei biscotti e mentre ritornava è stato colpito da un proiettile. La libas, la gata, oggi noi siamo in un mondo in guerra, dappertutto. Qualcuno mi diceva: ma lei sa, padre, che siamo nella terza guerra mondiale, ma a pezzi. Ha capito lì, no? È un mondo in guerra dove si fanno queste crudeltà. È stata un'estate di guerra tra Israele e Hamas nel Medio Oriente, in Ucraina. Si sono rincorsi tregua, incontri, ma la situazione anche in Europa e nel mondo è sempre più instabile. Anche il ministro degli esteri Mogherini ha detto una cosa che è passata un po' inosservata, ma molto, molto inquietante. Hanno ragione quelli che hanno avuto paura in queste settimane e ancora forse in questi giorni che la storia potesse portarci indietro di molti anni. Non è impossibile che i conflitti scoppino anche su un territorio europeo e di questo dobbiamo essere consapevoli e dobbiamo adoperarci perché questo non succeda. Una frase da brivido detto dal ministro degli esteri italiano, vicepresidente dell'Europa. Intanto la NATO militarizza i confini dell'Ucraina e la Russia minaccia ritorsioni. Risentiamo Papa Francesco che ha sintetizzato lo scenario globale con una frase molto politica in realtà. Oggi noi siamo in un mondo in guerra, dappertutto. Qualcuno mi diceva, ma lei sa padre che siamo nella terza guerra mondiale, ma a pezzi, a capitoli, no? È un mondo in guerra dove si fanno queste crudeltà. Ecco, la frase del Papa coglie una verità di una guerra diffusa, crescente, così sembra, che però solo lui tra i leader del mondo definisce terza guerra mondiale. Ecco, Mario, secondo te perché solo il Papa ha provato a definire lo scenario globale dei conflitti in un modo così preciso in realtà? Ma perché ovviamente il papato, la Chiesa cattolica sono una delle grandi forze transnazionali, quindi sono attenti alla globalità e a ciò che succede intorno al mondo. Ci si può dividere sul fatto che ci sia una terza guerra mondiale, ma di sicuro ci sono dei conflitti a bassa ed alta intensità molto diffusi che preoccupano e possono sfociare in un conflitto più grande. Ci sono tensioni continue, c'è una grande instabilità. 800 24 00 24 per chi vuole partecipare al nostro dibattito, 349 238 66, il numero dell'SMS. Pietrangelo, tu? Ovviamente non è la terza guerra mondiale, potremmo dire che è già la quarta guerra mondiale, perché evidentemente il Papa non ha voluto considerare la fase della guerra fredda, certo, che è stata molto più correttissimo, molto più forte, molto più potente di quella che è adesso attualmente guerreggiata. La situazione ovviamente, nelle parole del Papa, deve essere coerente rispetto al suo ruolo universale, ma se invece dobbiamo analizzarla freddamente, è ancora una volta lo stesso scacchiere che dopo Yalta non è riuscito a spostarsi di un solo millimetro. Tant'è vero che se l'Italia per esempio non ha sovranità è perché è ancora valido il diktat di Yalta. Ecco, noi ci siamo chiesti se esistono degli indici in qualche modo utilizzabili per misurare la concretezza e la realtà della frase del Papa. Cioè c'è una guerra mondiale di tipo diverso oggi? Ecco, esiste un indice che si basa su 22 parametri e lo adotta l'OIEP, che è un istituto specializzato in questo tipo di analisi. Con i nostri collaboratori di Pagella Politica abbiamo provato a fare il nostro fact-checking di oggi, cioè il confronto tra le parole e i fatti, proprio su questo tema. Ecco, il primo dato che ci ha colpito è che i paesi a media o alta conflittualità negli ultimi 5 anni sono passati da 58 a 84, cioè aumentati di parecchio. Sempre nello stesso periodo, cioè negli ultimi 5 anni, ci sono stati 50.000 morti in più. Anche i morti per terrorismo sono aumentati, 20.000, sempre nell'ultimo 5 anni. Anche i profughi che scappano dai conflitti e fuggono negli ultimi 5 anni sono aumentati di 7 milioni di persone in più che fuggono dai loro paesi per ragioni di guerra. Ecco, generale Carlo Jean, lei è esperto di strategia militare, come valuta la frase del Papa? È verosimile? Ma guardi, la frase del Papa è abbastanza condivisibile, nel senso che ci sono parecchie guerre, parecchi conflitti nelle zone di immediato interesse strategico sia della cristianità sia dell'Europa. Ecco, ma l'aumento dei morti, dei profughi, dei paesi coinvolti in conflitti sono parametri sufficienti per dire che c'è una terza guerra mondiale strisciante? Ma guardi, la conflittualità statisticamente diminuita era molto maggiore negli anni 60-70 di quanto lo sia adesso. Sicuramente da un punto di vista mediatico la diffusione della comunicazione ha reso più presenti i conflitti, e anche il fatto che la comunicazione è diventata uno strumento di guerra. Ecco, questo è il punto. Ma dal punto di vista dell'evoluzione militare, dopo la caduta del muro di Berlino, si poteva immaginare un approdo di questo genere, così guerre diffuse? Ma guardi, evidentemente il Papa fa il suo mestiere, non certo. È una visione più profetica che realistica, la visione realistica che aveva dominato sempre la storia della Chiesa Cattolica a partire da Sant'Agostino e San Tommaso, con la teoria o dottrina, se vogliamo dire, della guerra giusta, certo, che è stata ripresa poi dal Catechismo della Chiesa Cattolica scritto da Papa Ratzinger. Ma c'è da rimpiangere la guerra fredda, secondo lei? No, oggi, a mio avviso, chi rimpiange la guerra fredda è una parte dell'Europa occidentale, ma rimpiange la guerra fredda anche per un motivo, che durante il periodo della guerra fredda c'era ancora il dominio completo dell'Occidente, le potenze emergenti non erano così aggressive o non venivano percepite così aggressive come sono adesso. Però la NATO di fatto sta militarizzando di nuovo i confini orientali dell'Europa, è una strategia giusta o una provocazione molto violenta? Guardi, sta militarizzando con una forza di reazione rapida a cui 13.000 uomini esistenti vengono aggiunti 4.000 uomini. Inoltre vengono fatti dei depositi di armamenti in maniera tale da mettere gli stati baltici, la Polonia e la Romania in condizioni di poter essere soccorse, aiutate rapidamente anche da forze pesanti della NATO. Ecco, però il Parlamento europeo e quello ucraino hanno votato per l'ingresso dell'Ucraina, della richiesta dell'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. È una provocazione per la Russia questo, però. Ma quello lì, a mio avviso, sì, uno spasso più lungo della gamba, perché poi l'Ucraina non sarà in condizioni economiche di entrare nell'Unione Europea, l'Unione Europea dovrebbe dedicare tanti soldi che non ce li ha. Senta, un documento però che ha pubblicato il giornale qualche giorno fa sotto il titolo provocatorio "Così Obama vuole spingerci alla guerra contro Putin", in realtà è stato presentato al Senato americano a maggio e poi i fatti sono seguiti alle parole. Ecco cosa dice in sintesi questo documento, ascolti un attimo. Il piano americano mette radici in Europa attraverso il rafforzamento delle basi permanenti NATO in Polonia e nei paesi baltici. 4.000 soldati NATO sono a disposizione e le difese missilistiche saranno rafforzate nei paesi dell'Europa orientale. Le sanzioni alla Russia si inasprieranno colpendo cittadini e organizzazioni russe anche al di fuori del paese e i familiari di chi è stato coinvolto in atti illegali contro l'Ucraina. Per il controllo energetico invece l'America sta stipulando accordi bilaterali con Ucraina, Moldavia e Georgia, paesi alleati nel Caucaso. Infine gli americani prevedono investimenti per potenziare The Voice of America, l'emittente radiotelevisiva degli Stati Uniti che trasmette la voce degli USA in tutte le aree baltiche ed ex sovietiche, e finanziare le ONG che operano in quei territori. Ecco, è un documento che ha importanza oppure no? A mio avviso un bla bla bla bla politico diretto all'opinione pubblica interna americana e forse in parte dell'opinione pubblica occidentale, per dire così che l'America continua a mantenere la leadership e fa qualcosa. Quindi non è un documento per la prevenzione dell'aggressione russa, no, o per destabilizzare i rapporti tra Europa e Russia? No, la prevenzione dell'aggressione russa, innanzitutto l'Ucraina non fa parte della NATO, quindi no, la certo, NATO però non è tenuta ad andare a difendere l'Ucraina. Sicuramente per i paesi baltici, per la Polonia e la Romania, la questione si pone in termini differenti, e tanto che gli Stati Uniti hanno fatto accordi anche tramite la NATO con la Svezia e la Finlandia per poter utilizzare le infrastrutture svedesi e finlandesi in caso di necessità. Quindi il ritorno alla centralità della NATO lei non lo vede come un segnale di ritorno ai venti di guerra fredda? Ma guardi, a mio avviso i legami economici sono talmente forti tra l'Europa e la Russia che ben difficilmente potranno essere annullati e ritornare ai tempi della guerra fredda. Ma il tentativo degli Stati Uniti è quello di spingere l'Europa, la Russia, appunto, invece a un conflitto che farebbe soltanto il gioco degli Stati Uniti. Ma sa, Obama in questo caso qua è un peso leggero rispetto a un peso massimo come la Merkel. Ma però nello scontro fra Europa e Russia sulle ritorsioni economiche, lì un problema è finto anche quello, oppure avrà delle conseguenze? Ma quello lì ha delle conseguenze sicuramente sia per la Russia che per l'Europa, molto inferiori per gli Stati Uniti, che più o meno ne traggono vantaggio, esatto, senza pagare lo scotto, insomma. Cioè, diciamo che Obama capisce poco di politica estera, oppure la sua strategia è perdente. Aveva dichiarato che il periodo delle guerre lunghe era finito per gli Stati Uniti. Adesso proprio ho fatto la coalizione per fare una guerra lunga lì in Medio Oriente. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Ricordo ai nostri ascoltatori che noi leggiamo gli SMS se sono firmati, lo ricordo perché ce n'è uno interessante che non è firmato, è l'ultimo che leggo. Minoli: l'Italia, per appoggiare un golpe fascista in Ucraina, ha messo in brache di tela l'agricoltura italiana e tante altre cose. Voi purtroppo non dite che ha ragione Putin. Io non so se Putin ha ragione, ma noi discutiamo moltissimo di questa cosa. È un anno che discutiamo nel nostro programma, e quindi ricordo, per favore, firmatevi, perché se no da adesso in poi non li leggiamo. Avete una cosa da dire su quello che ha detto Gian? Sì, che consiglio a tutti di guardare l'andamento di un indice che si chiama Dow Jones Defense Index. È l'indice di borsa di Wall Street del settore difesa, è cresciuto del 35% nell'ultimo anno, e secondo voi perché? Perché si alimentano le speranze di conflitti, di guerre, soprattutto di export di armi americane all'estero. Quindi finché c'è guerra c'è speranza. Assolutamente sì. Per il mercato delle armi. Ah, su questo no, non ci sono dubbi. Vabbè. Mix 24. T'es beau, t'es beau parce que t'es courageux, de regarder dans le fond des yeux, celui qui te défie d'être heureux. T'es beau, t'es beau comme un cri silencieux, vaillant comme un métal précieux, qui se bat pour guérir de ses bleus. Insomma, Pietrangelo, una playlist nuova, eh? Perché il sole ha sempre più fretta di tramontare, e questo perché si è accorto il sole che le ombre hanno deciso di fare di testa propria. Per esempio, l'ombra di una rosa appassita ieri si è alzata e ha disegnato perfino il profumo. E così l'ombra di un albero che già sente l'agguato dell'autunno, e nella silhouette che ha disegnato sul muro di un giardino ha messo tutti i fiori. E così un uomo e una donna che non si parlano, che non si vedono, ma si pensano sempre, camminando, avevano l'uno l'ombra dell'altra e viceversa. Hanno raddoppiato l'ombra, e così il sole ha sempre più fretta, si è reso conto di un fatto, che l'ombra e il mondo dietro il mondo ha fantasticherie inarrivabili. J'ai peur d'accepter, j'ai peur de vivre à présent. Stiamo proprio alti alti, e non so se le tue bolle sono uguali. No, Mario, bassissimo, io... Bassissimo, andiamo bassissimo. Con le bolle. Senti qua. Per l'anno del Signore 1314, patrioti scozzesi, affamati e soverchiati nel numero, sfidarono il campo di Bannockburn. Si batterono come poeti guerrieri, si batterono come scozzesi. Giuro, William Wallace, è il penultimo giorno, anche perché mancano 24 ore al voto in Scozia. Sapete tutti per cosa si vota, no? Pietrangelo, lo sappiamo. Cioè, devono decidere se staccarsi o no dalla madre patria, Inghilterra. La madre patria è la Scozia, chiariamo. Ma quando mai? Allora, l'ultimo sondaggio dà in ascesa i favorevoli a stare in realtà nel Regno Unito, 52%, anche se poi in realtà il momentum è in flessione, cioè perdono un punto. Guadagnano qualcosa i favorevoli alla secessione, salgono al 48%, è un punto percentuale in più, però insomma i mercati stanno scommettendo in questo momento. Su cosa scommettono? Ma che non ci sarà la secessione, non ci sarà l'indipendenza della Scozia. Solo il 20-30%, per esempio, io ho già scommesso ieri che non ci sarà. Solo il 20-30% dei clienti di Nomura, per esempio, pensa che la Scozia diventi poi indipendente. Vediamo se le previsioni fanno centro. Sai, ci sono mezzo milione di indecisi. Vabbè, vediamo domani. Questo sarebbe sarebbe la questione. Risentiamo un vecchio amico che è venuto a trovarci. Ah, sì, dai, vai con Gecko. Vai. L'avidità. Non trovo una parola migliore. È valida. L'avidità è giusta. L'avidità funziona. L'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo. L'avidità in tutte le sue forme. L'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità. L'avidità. L'avidità. Allora, ma parliamo di classe media americana, però insomma ci riguarda da vicino, perché poi sono fenomeni che ahimè si stanno globalizzando. È stato pubblicato uno studio da poco sullo stato, diciamo, dell'economia americana, che è molto preoccupante. Conferma dati che già si sapevano, ma si sta allargando ulteriormente la forbice. Cioè, fino al 99 i guadagni della classe media più o meno coincidevano, diciamo, con l'andamento dei mercati, delle azioni e così via. Dal 99 in poi, disastro totale. I guadagni delle famiglie sono rimasti tali o addirittura peggio di prima, mentre i mercati sono schizzati in alto del 40%. E questo che cosa significa? Significa che la società americana è più ricca, ma la classe media si è impoverita. Quindi, cioè, stipendi bassi e finanza altissima. Stipendi bassi, finanza altissima. Prestiti sempre più insicuri, perché a buste paga più fragili corrispondono poi, diciamo, siccome devi consumare. Andiamo verso un'altra bolla, superbolla. Probabile. Molti vedono un'ennesima crisi finanziaria, soprattutto legata ai prestiti al consumo, perché comunque la società americana, la società occidentale in generale, consuma tantissimo, più di quanto possa permettersi. Allora, ce l'aveva detto Ennio Doris qua in trasmissione. Insomma, bisogna, si avvicinava un'altra bolla. Bisogna stare, secondo me, un po' attenti. Teniamo d'occhio anche le banche centrali, perché devono prendere delle decisioni in questi soldi. Giorni. La Fed e la BCE. Sì. Roberto da Roma. Roberto, buongiorno. Dottor Minori, buongiorno a lei e buongiorno ai suoi ospiti. Dica. Niente, io volevo intervenire per quanto riguardava il discorso tra America e Russia. Dica. La politica estera. Secondo me la politica estera americana è un po' troppo aggressiva nei confronti dei paesi. E ha fatto degli errori abbastanza importanti e vediamo le conseguenze. Vabbè, il generale Jean l'ha detto con chiarezza, mi pare. Sì, però io credo che tra i due, tra Putin e Obama, quello che sia più responsabile è Putin, anche ricordando quella trasmissione che lei ha fatto sul sottomarino Kursk, che fu affondato nel 2000. Ha evitato un impeach internazionale. Va bene, grazie. Allora, Salamini. A Ballarò, ieri, la carta d'oro di Massimo Giannini, niente meno Roberto Benigni, s'affumò. Il grande alibi della commedia ideologicamente corretta ha quindi svelato la sua vera natura. Dopo tanto salmodiare, tromboneggiò. Dopo aver massacrato la Divina Commedia, il premio... Roberto! Ecco, il premio Oscar... Giusto ieri ha portato a compimento il suo più efferato delitto, ha ucciso la commedia. Però il trombone, cioè voglio dire, insomma, è così generoso che mi ha spiazzato, sapete? Perché? Perché ce l'abbiamo al telefono. Oh, che meraviglia. Benigni al telefono con noi. Vai Roberto. Eccolo, buongiorno. Ah, ecco. Io ovviamente che ho le scuole alte posso tradurre, perché ormai... Ma che? Ma ha detto, se volete fare delle domande, pronto. Roberto, sei un genio, scusaci, sì. Abbi pietà del nostro amico. Noi siamo per la libertà di pensiero e di parola. Ah, sta dicendo, grazie. Ma chi sono io per fare il comico? Così. Mario, tu? No, io volevo capire se Renzi regge a questo punto. Era l'unica cosa che c'era sulla trasmissione, quindi... Renzi regge a maggior ragione perché ormai è padrone della situazione. In rima. scatenato stamattina. E lo conferma anche la Costituzione più bella del mondo. Signor Trombone, sa benedica. Scusa Roberto, sei un genio, sono un tuo fan. Quota rosa, Sara. Amarsi un po'. Molto carino. È un po' fiorire. Aiuta, sai, a non morire. Senza nascondersi, manifestandosi. Ecco Giovanni, la dedico a tutti gli indecisi in amore e anche agli scozzesi che domani andranno alle urne. Ma cosa sta capitando? Giovanni, me lo dici? Qua si vogliono lasciare tutti, un disastro. La Scozia sta pensando di separarsi dall'Inghilterra, la Catalogna di dire addio alla Spagna, l'Italia ogni tanto a me, ve lo devo dire, sembra separata in casa. Ma quello che mi colpisce è che pure noi, donne e uomini, ci sopportiamo sempre meno. I divorzi, le separazioni che aumentano a vista d'occhio, insomma siamo tutti raminghi e separati, soli e contenti. Nessuno vuole più stare insieme, gli uomini con gli uomini, le regioni con gli stati, le donne con gli uomini, gli stati con gli stati. Con la frente marcita, la nieve del tiempo, platearon mi sien, sentì. Volver, tornare, il titolo di questa canzone. Chissà, magari pensavo, no? Agli scozzesi verrà voglia di tornare sui loro passi. E invece, chi di voi che ci sta ascoltando ha deciso di tornare dalla sua amante, dalla sua famiglia, da un suo amore? Scriveteci a mix24@radio24.it perché la posta del cuore di Don Pietro e di Donna Sara sta arrivando. Viabilità. Mix 24. Canzoniere. Ben conscio dei miei limiti, a tuo favore posso tirar fuori storie di manchevolezze di cui sono colpevole, così che, perdendomi, sei tu che vinci, e con questo vincerò anch'io, perché rivolgendo a te ogni mio pensiero d'amore, le ferite che io mi infliggo, essendo a tuo vantaggio, ne recheranno il doppio a me. Tale è il bene che ti voglio, ti appartengo tanto che per darti ragione mi assumerò ogni torto. 800 24 00 24 il numero verde, SMS 349 238 6666. Mario, ancora una bolla. Sì, un consiglio, adesso ve la faccio sentire. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin, and therefore as a free man I take pride in the word. Allora, questo è JFK, era il 26 giugno del 63, faceva un discorso importante a Berlino. E io consiglio un libro appena uscito, è l'ultimo della trilogia di Ken Follett, la Century Trilogy, e si intitola I giorni dell'eternità, racconta la fase del Novecento della Guerra Fredda. Follett è uno straordinario scrittore, i primi due libri li ho letti, sono eccezionali tutti e due, e buona lettura. Lo leggeremo, sì, perché Ken Follett è davvero straordinario. Ti piace Ken Follett? No. Sì. Non lo Salamino. Che lui è letterario. Matteo Renzi ha intimato ieri ai professionisti della tartina ciò che molti anni fa Bettino Craxi notificò agli intellettuali dei miei stivali. Il concetto è: non fate perdere tempo. Io che sentimentale sono, ricordo lui, e lo dico a voi, tutti lei, quando diceva: non andremo certo a cercare le farfalle sotto l'arco di Tito. Insomma, Renzi ha fretta ed è l'ultima chance. Questo ha detto ieri, è l'ultima chance, è lui stesso, tant'è vero che Ceccarelli oggi su Repubblica ricorda che era stato detto di Mario Monti e l'aveva detto la Marcegaglia, così come la Serracchiani aveva detto, e questo è triste ricordarlo, l'aveva detto di chi? Di Enrico Letta, e non lo disse certo di Matteo Renzi, però ci sono tante cose, ma soprattutto questi mille giorni. Non si capisce se sono iniziati, se cominceranno, se arriveranno, se sono già esauriti, giorni, giorni, giorni, giorni, ma io che sono sentimentale, pensando a lui, gli dedico questo frammento. E siccome trasmettiamo da Roma e mandiamo i saluti, mal non gliene colga la Cassazione. Saluti da Roma. Bella sta canzone. Molto. Caro lui. Caro lei. Cara lei, cara Sara, cara Tasi, domani è l'ultimo giorno per sapere se la votere, se la pagheremo tutta insieme, se sarà pagata a rate. Com'era sta storia della Tasi? Paga e Tasi. Zitto e paga. Tasi e paga. La Tasi è la tassa comunale sui servizi indivisibili, quei servizi da cui proprio non ci possiamo separare, come le strade o i lampioni. Insomma, quei servizi che quando esci di casa la mattina e vedi i servizi indivisibili del comune, dici... Paga e Tasi, che è meglio. È un'etrina la Tasi, pensata da una mente da serial killer, ha eliminato le sue sorelle, Imu e Tarsi. Ma vedrete che pagherete meno tasse, ci dicevano. Mai lasciare la strada vecchia per quella nuova, mi diceva mia nonna. La Tasi è così indivisibile che tanti comuni non hanno stabilito neanche quanto si dovrà sborsare. Scadenza 18 settembre. Ma che importa? È indivisibile e quindi si può pagare benissimo tutte insieme il 16 dicembre. E poi scontenta tutti e non fa torti a nessuno. La paga il proprietario senza affittuario, la paga il proprietario ma anche un po' l'affittuario, la paga il figlio, lo zio, non la paga la moglie, ma la paga l'ex moglie. E quindi un consiglio, paga e Tasi, zitto e paga. Sara, ma intanto, nessuno l'ha indovinato, il canzoniere? No, ma no, Pietrangelo, devi dare un indizio. Un indizio? Sì. Non telefonano. Dai, su, è una questione di volontà. Dai. Uno ha telefonato ma ha sbagliato proprio tanto. No, non lo voglio dare l'indizio. Ma è sfacciato. Questo è il risultato del danno del benignismo. Dopo aver massacrato la Divina Commedia, la gente non riconosce più il bardo. Oi. Più indizio di questo, l'ho detto. Vabbè, vediamo se qualcuno lo recepisce questo indizio. Intanto, il 16 settembre del 77 moriva Maria Callas. Ecco, dopo il giornale radio con Marina Milone raccontiamo la vita di questa straordinaria cantante, ma soprattutto raccontiamo la storia di una donna, del suo amore fatale per il magnate greco Aristotele Onassis, una donna come la Callas che addirittura pensava di non saper cantare. Per tutta la vita ho pensato che non avrei mai dovuto cantare, che non ero capace. Sono sempre stata la prima critica di me stessa. Ma non ho mai detto che avrei smesso di cantare per sempre. Me lo sono ripetuto migliaia di volte, questo sì. Ma non ho mai dichiarato ufficialmente che non avrei più cantato. I grandi talenti che... l'umiltà anche di non riconoscersi e non sapeva cantare, infatti l'abbiamo sentito. Maria Callas, ma tu fra i canterini di ieri sera a Ballarò e a Di Martedì che hai pensato? Mi sembri Mike Buongiorno, vuole la 1, la 2 o la 3? Ma cosa ho fatto? Quello che hanno fatto tutti, ho guardato il pippone iniziale di Giannini, che vabbè, ok, ha fatto tutto il, il Pulitzer, vabbè, ok, l'abbiamo già sentito. Poi ho sentito il pippotto iniziale di Floris, rieccoci, siamo di nuovo vabbè, qui. Poi è dormito, ho capito. E vabbè, non c'era niente di nuovo. No, io sto pensando al povero Urbano Cairo, ha speso l'ira tutti di quei soldi, ha tolto l'acqua agli ospiti per pagare Floris e non so come vada a finire. Lo sapremo fra poco, fra 5 o 6 minuti. Intanto pubblicità.